giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pronto soccorso, a Trieste aumenta il livello della protesta, gli operatori chiedono un incontro urgente alla regione, si profila lo stato di agitazione, infermieri, OSS e barellieri rilanciano la denuncia di gravi carenze. Un hotspot al confine italo-sloveno, sull'esempio di quelli attivati nei porti del sud, la proposta dei questori di Trieste e Gorizia è all'attenzione del capo della polizia Giannini e del Ministero dell'Interno. Non ce l'ha fatta il 62enne investito a Udine mentre era in bicicletta. Milan Stanisavljevic è morto in ospedale a causa dei gravi traumi alla testa. Ora si cercano testimoni dell'incidente. L'esposizione all'amianto continua a causare patologie gravi anche ai familiari dei lavoratori entrati direttamente in contatto con la fibra, ma le cure migliorano e anche i ritmi di smaltimento. Il punto in un convegno a Trieste. Nuovi rimborsi per l'acquisto di biciclette. La regione stanzia 1 milione di euro. Ai fondi si potrà accedere in un click day programmato per il 23 gennaio. E si potrà andare in bici fin sulla vetta del Lussari sfruttando il percorso della tappa di maggio del Giro d'Italia. Ieri un sopralluogo tecnico sul percorso. La stretta sull'energia ma anche le condizioni capestro di alcuni gestori hanno fatto sì che un utente su due in regione negli ultimi mesi si sia rivolto alle associazioni dei consumatori. Adiconsum intanto mette in guardia dagli estranei che si propongono di leggere la bolletta, un modo per farci cambiare gestore e contratto inconsapevolmente. A Trieste tra meno di un mese il via ai lavori di realizzazione del nuovo asilo nido del rione di San Giovanni, impegnati in tutto 26 milioni per manutenzioni straordinarie e nuove edifici. Presentati a Udine i manuali per l'insegnamento della lingua friulana, le scuole elementari entro il mese saranno consegnati in 61 istituti. Sono le 7:20 di martedì 15 novembre, buongiorno da Nada Cioc e Andrea Covri in studio per questa prima edizione del giornale radio regionale. Diamo un'occhiata al tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla zona orientale, sereno poco nuvoloso sulla parte centro-occidentale della regione. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 10,5 gradi, a Gorizia e Udine 8,5, a Pordenone 5,5 gradi, a Tolmezzo 7 gradi, Forni di Sopra 3, Tarvisio 3,5 gradi, Sapada 1 grado, 0 gradi. Sul Piancavallo, sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado sopra lo zero, Monte Lussari 1 grado, tornando sulla costa Lignano e grado 11,5 gradi. Le previsioni dell'Osmer ARPA su tutta la regione: cielo in prevalenza nuvoloso con un po' più di sole al mattino e nuvolosità più consistente nella seconda parte della giornata, quando sarà possibile anche qualche pioggia sparsa, in genere debole, forse moderata verso il Carso e Trieste. Di notte fino al mattino possibili foschie o nebbie in pianura, specie a ovest. Ora le notizie, partiamo dalle tensioni tra gli operatori della sanità. Dopo la denuncia dei gravi disagi, a Trieste infermieri, operatori sociosanitari e barellieri hanno deciso di aprire una vertenza sindacale con la richiesta di un incontro immediato ai vertici di Asugi. Il personale non medico del pronto soccorso di Trieste entra in stato di agitazione. Lo ha proclamato l'assemblea dei lavoratori che fanno riferimento al contratto del comparto come infermieri, OSS e barellieri. Sarà chiesto un incontro ai vertici dell'azienda da tenere insieme ai rappresentanti dei medici. Non basta la promessa di 5 nuove assunzioni di infermieri formulata da Asugi la settimana scorsa in risposta al grido d'aiuto giunto dal pronto soccorso in una lettera interna pervenuta alla nostra redazione di cui vi abbiamo dato conto. I contenuti della missiva sono stati confermati da chi ha parlato in assemblea. Difficilmente riusciamo a garantire sicurezza e dignità del malato, è stato detto. Non sempre si rispettano i tempi previsti dal colore dei codici, che variano a seconda della gravità. Pazienti attendono in barella in corridoio a lungo, un gruppo di circa 20 malati sono fermi in una stanza che dovrebbe fungere da osservazione breve, ma lì rimangono anche una settimana. Un reparto nel reparto che appesantisce la gestione, ciò è dovuto alla mancanza di posti letto nelle aree specialistiche. Luca Petruzzi del Nursind. Bisogna mettersi a un tavolo e pensare veramente quali possono essere le vere soluzioni per questo grave problema, che è la sicurezza degli operatori e di chi ogni giorno afferisce al pronto soccorso. L'azienda sanitaria si trova in un'oggettiva difficoltà di reperimento dei professionisti. Giorgio Jurkic, CISL. C'è una forte attrattiva del privato, cosa che anni fa non c'era, e quindi non sappiamo quanti verranno. La carenza del personale ormai è cronica, non solo nel pronto soccorso, ma in tutta l'azienda. L'indennità per chi opera in emergenza-urgenza, del resto, è troppo bassa. Fabio Potocnik, FIALS. Parliamo di 40 euro al mese per chi lavora nel pronto soccorso. Cercheremo di aumentare questo importo per, sicuramente per riconoscere a chi ogni giorno si dedica alla salute dei cittadini. Altro tema caldo è quello degli spazi ridotti del pronto soccorso di Cattinara, che l'azienda vuole infatti allargare. Francesca Fratiani, CGL. È da anni che si parla di creare spazi più larghi, nel frattempo in cui si avvii questa procedura di ristrutturazione, ma nulla è stato fatto e questo crea comunque una difficoltà nell'assistenza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La rotta balcanica non si ferma e l'accoglienza per i richiedenti asilo è sempre più difficile. I questori di Trieste e Gorizia hanno chiesto al capo della polizia e al Ministero dell'Interno di istituire un hotspot sulla fascia confinaria con la Slovenia, sull'esempio dei centri di identificazione e smistamento istituiti nei porti del sud Italia. È già all'esame del capo della polizia Giannini la proposta congiunta dei questori di Trieste e Gorizia di allestire un hotspot lungo la fascia confinaria. Non potrà che essere un luogo di transito, non di permanenza dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica, precisa il questore di Gorizia Gropuzzo nel confermare la notizia, rimarcando tuttavia che l'ultima parola spetta al Ministero dell'Interno, al Governo e non ultima alla Regione. Appoggiano l'idea i sindacati di polizia SIULP e SAP, che per primi ne hanno dato annuncio. Perplessità invece da un'arma al sindacato dei Carabinieri, che teme possa diventare un nuovo CARA assorbendo ulteriormente risorse finanziarie e di personale. Tutti concordano sulla destinazione d'uso della struttura. Dovrà offrire prima accoglienza ai migranti e provvedere alla loro identificazione per poi trasferirli fuori regione nel giro di alcuni giorni. Se n'era parlato già 3 anni fa con l'ipotesi poi sfumata di Casa Malala a Fernetti, divenuta invece centro di accoglienza permanente. Per i sindacati lo spot resta l'unica soluzione per fronteggiare l'emergenza attuale e sgravare le due questure. SIULP e SAP richiamano i dati diffusi da Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Solo nei primi 5 mesi dell'anno gli ingressi in regione sono aumentati del 167% rispetto all'anno scorso. Il SAP ricorda anche che ad ottobre i rintracci a Trieste solo della Polizia di Frontiera sono stati oltre 1600, il doppio di un anno fa, e che a novembre sono già a quota 613 e si va avanti al ritmo di 50 al giorno, anche a Gorizia. Numeri record e sottostimati, rimarca il SAP. Resta in crisi il sistema di accoglienza. A Gorizia il prefetto Ricciardi annuncia di voler incontrare il sindaco per cercare di dare sistemazione ai nuovi arrivi e di voler attrezzare una seconda mensa al CARA di Gradisca di Sonzo. A Trieste il prefetto Vardè ha fatto appello ai comuni dell'area giuliana per reperire strutture cuscinetto in vista dell'inverno, ma i sindaci si riservano risposte e intanto si sta valutando l'ipotesi di riattivare l'ufficio immigrazione di Opicina, allestito nei mesi estivi per i fotosegnalati. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. La neoeletta Presidente della Repubblica Slovena, Nataša Pirc Musar, sarà domani a Trieste al Kulturni Dom per incontrare la comunità slovena in Italia. Dopo l'incontro con i rappresentanti della minoranza, alle 18 la Presidente interverrà dal palco del Kulturni Dom nell'incontro pubblico. 54 anni, ex giornalista, avvocata esperta di protezione dei dati, Nataša Pirc Musar è la prima donna a capo dello Stato sloveno. Nelle elezioni ha vinto il ballottaggio ottenendo il 53,86% dei consensi. Ha superato il candidato conservatore ed ex ministro degli esteri nel governo Janša Anže Logar, che ha raggiunto il 46,14%. Il prossimo 23 dicembre Pirc Musar succederà a Borut Pahor, che è stato presidente della Repubblica Slovena per 10 anni. Siamo alla cronaca. È morto all'ospedale il ciclista di 62 anni che si è scontrato con una vettura ieri mattina a Udine in via Ascoli. Le condizioni del 62enne serbo Milan Stanisavljevic, da anni residente in città, sono subito apparse molto gravi per i traumi subiti al capo. L'uomo lascia la moglie e 2 figli. La polizia locale sta ancora accertando la dinamica e ha lanciato un appello a chiunque abbia assistito alla scena e può quindi fornire elementi utili di rivolgersi agli uffici della polizia locale. Parliamo ora di amianto, perché a Trieste un convegno ha fatto il punto sulle bonifiche realizzate finora e ha anche analizzato un risvolto sanitario per nulla secondario, la patologia riscontrata anche nei familiari dei lavoratori colpiti. La coda di malattie legate all'amianto, utilizzato per decenni in cantieri, porti e acciaierie, continua a provocare effetti in Friuli Venezia Giulia. Lo dicono i numeri resi noti a Trieste in un convegno organizzato dall'Osservatorio Nazionale Amianto. Negli ultimi 30 anni, in base ai dati INAIL, sono stati 1479 i casi di mesotelioma, di cui 133 dal 2019 al 2021. Oltre 3000 i casi di tumore al polmone, che hanno provocato 2700 vittime. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio. I casi di asbestosi sono di soggetti che magari possono vivere anche 5, 6, 10 anni, eccetera, quindi diventa una lunga agonia. Poi ci sono i mesoteliomi, il tumore del polmone. La situazione mette però in guardia il dottor Paolo Barbina, direttore del Centro Regionale Unico Amianto di Monfalcone. È ancora più grave perché ai casi denunciati all'INAIL vanno aggiunti quelli dei familiari dei lavoratori. Grazie anche ai migliori strumenti di diagnosi, spiega, negli ultimi anni sono in aumento quelli riscontrati nelle donne non esposte all'amianto se non in un contesto familiare. E inoltre si sono registrati i primi casi sui figli degli operai che avevano lavorato con l'amianto. Infine andrebbero conteggiati anche tutti i dipendenti stranieri tornati nei loro paesi d'origine e quindi non rientrati nelle statistiche. Finora in regione sono stati segnalati oltre 15.000 siti contaminati su una superficie di 3,5 milioni di metri quadri. Dal convegno è emerso che la nostra regione è all'avanguardia in Italia per le bonifiche, con 10.000 tonnellate di amianto rimosse ogni anno. Permangono però criticità, dice ancora Barbina, sia sulla mappatura completa dell'amianto ancora presente che sul fronte del controllo dei siti di smaltimento. Si dovrebbero implementare le discariche, organizzare un sistema di discariche, però per il resto è una regione avanzata perché è la porta dell'Europa. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Nuovi collegamenti aerei si annunciano per Trieste Airport. Verranno annunciati questo pomeriggio nella sede della Regione a Trieste durante una conferenza stampa congiunta del Presidente della Regione Fedriga, dell'amministratore delegato di Ryanair Eddie Wilson e dell'amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo. Da quello che si è saputo finora si tratta di un accordo a medio e lungo termine con la compagnia irlandese che porterà a partire dal 2023 fino a un raddoppio delle destinazioni, in particolare in ambito internazionale. Nuova misura della regione per incentivare la mobilità sostenibile, un rimborso sull'acquisto delle bici. Il Click Day per avere accesso ai fondi è previsto per il 23 gennaio. Chi ha acquistato una bicicletta nuova a partire dall'11 novembre potrà avvalersi del ritorno di un contributo regionale. Fino al 30% dell'importo, per un massimo di 300 euro per le bici elettriche a pedalata assistita e fino a un massimo di 200 euro per quelle tradizionali a propulsione muscolare. Non uno sconto all'acquisto, ma un rimborso dietro presentazione di una domanda. La misura destinata ai residenti in regione è stata annunciata dall'assessore regionale all'ambiente e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. 1 milione la cifra messa sul piatto dalla Giunta, 950.000 euro di contributo e 50.000 euro per le camere di commercio che gestiranno le pratiche. La domanda sarà presentabile redigendo il modulo sul sito della Regione, attivo dal prossimo 23 gennaio, ma già scaricabile da fine dicembre. È un'iniziativa che già c'era, l'abbiamo un po' rispolverata e adeguata ai tempi, mettendoci qualcosa in più per le bici elettriche e aggiungendo anche le biciclette normali. La direzione regionale stima che i 950.000 euro permetteranno di soddisfare almeno 3.000 domande e il recupero di altre 500 vecchie ancora giacenti. A Udine, un negozio specializzato prevede una tendenza generale al rialzo dei listini dal 2023 e più difficoltà di reperimento sia sul nuovo sia sulla componentistica. Ma ormai le e-bike rappresentano più di metà della domanda. Cesare Floreani, rivenditore di biciclette. Negli ultimi anni, grazie anche alle nuove tecnologie, alle bike in particolare, le bici sono aumentate tantissimo di qualità e riescono ad avvicinare delle persone a questo mondo con molta più facilità, proprio perché permette di andare, per esempio, non so, sul Lussari in maniera molto più semplice. Una salita ripida la si può affrontare anche da parte di chi non è assolutamente preparato. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E proprio ieri c'è stato un nuovo sopralluogo sulle strade della tappa del Giro d'Italia, cioè Lussari, che a maggio porterà la corsa sul Lussari. Sentiamo com'è andato. Sarà una tappa decisiva perché durissima. 27 maggio 2023, 18 km di cronoscalata al Monte Lussari, 8 di pura salita con pendenze fino al 22% prima di arrivare al santuario. Una salita tutta nuova che RCS, l'organizzazione del Giro d'Italia, assicura diventerà storica come per lo Zoncolan. Mauro Vegni, direttore RCS Sport. Questa è una tappa veramente difficile, una tappa che può dire tanto in termini di vincitore del giro, perché sono 8 chilometri di salita veramente dura, dove prendere 3 o 4 minuti dall'avversario non è così difficile, per cui sarà decisiva. Una salita realizzata con un cemento impermeabile voluta dal patron del Giro in Friuli Venezia Giulia, Enzo Cainero, che diventerà mezzo di promozione turistica, sarà poi accessibile solo alle biciclette e mezzi di soccorso e che prova a mettere d'accordo dopo le polemiche sull'impatto ambientale. Andrea Cainero, Giro d'Italia, FVG. Non è stata fatta alcuna rasatura o sfrondatura di alberi o tolti alberi, proprio per evitare qualsiasi problematica all'ambiente. Confermo che sarà dedicata all'utilizzo per le bici, i bike, le bici elettriche, molto importante, e per il turismo in generale, per arrivare su alla cima del santuario. Il sopralluogo tecnico, cui ha partecipato anche Protezione Civile e Regione con Stefano Mazzolini ed Edoardo Petizziol, non completato fino in vetta per la presenza della neve, ha evidenziato la necessità di coprire in modo provvisorio con della carta catramata le griglie di scolo per impedire forature. Tarvisio, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Crisi energetica e nuove povertà è il tema della tavola rotonda in Camera di Commercio a Udine promossa dalla CISL e dalla Diconsum. Ai lavori, che inizieranno alle 9.30, parteciperanno tra gli altri Massimiliano Zampieri per l'Agenzia Regionale per l'Energia, il numero uno nazionale di Adiconsum Carlo De Masi e il segretario regionale della CISL Alberto Monticco. Dalla Diconsum regionale un dato significativo: un utente su due si rivolge alle associazioni per problemi legati alle bollette, non solo a causa degli aumenti, come ci spiega il presidente regionale Giuseppe De Martino. Diciamo che possiamo dividere in due: c'è una parte che è legata molto alla questione reddito, cioè al fatto che le bollette abbiano dei costi esorbitanti e ci sono famiglie che non riescono a onorarle, e quindi ben vengano tutte quante le varie operazioni che sono state fatte in questi mesi, in queste settimane, per cercare di addolcire un attimino la pillola. E poi c'è un altro aspetto che collegato indirettamente alla vicenda, che riguarda contratti modificati, clausole vessatorie, cose di questo tipo, che in questo periodo hanno visto protagoniste molte aziende poco corrette nei confronti dei consumatori, che sono soprattutto in questo momento in una situazione di grande debolezza. Infatti ci sono casi di persone che si presentano ai portoni dicendo: ma sa che c'è stato un errore di lettura sul suo contatore? Quando mai? Sì, infatti il problema è questo qui. Poi noi ci caschiamo come perché ci fidiamo, magari gli diamo il numeretto, il POD, che è un numero particolare che c'è sulla bolletta, e ci ritroviamo con un altro fornitore senza aver chiesto niente, per esempio. Questa è una dinamica che purtroppo si sta verificando abbastanza spesso, e vengono colpiti soprattutto gli anziani rispetto a questa problematica. Ecco, mettiamo caso che siamo incappati in un caso simile e quindi abbiamo cambiato gestore inconsapevolmente, che fare? Beh, la prima cosa da fare è rivolgersi a una delle associazioni consumatori che sono presenti in regione, a uno degli sportelli, e saranno in grado certamente di dare una mano, perché bisogna stare attenti a non far passare troppo tempo per evitare poi di passare dalla parte del torto anche quando si ha ragione. La prima cosa da fare è passare nelle nostre associazioni e farsi tutelare immediatamente. Le assemblee dei giornalisti dei quotidiani regionali Il Piccolo e Il Messaggero Veneto hanno votato la fiducia ai nuovi direttori Roberta Giani e Paolo Mosanghini. Nella nota che annuncia la fiducia, il comitato di redazione del Piccolo sottolinea le sfide ancora senza risposta. La direzione, si legge, si troverà a gestire un'accelerazione sul digitale più volte annunciata dall'editore con toni trionfalistici, senza tuttavia che siano derivati investimenti e revisioni organizzative conseguenti. Anche i giornalisti del Messaggero Ferro Veneto hanno rinnovato la pressante richiesta all'azienda di un maggiore impegno sul fronte dell'occupazione per un organico adeguato alla trasformazione digitale. Nuovi lavori pubblici si annunciano a Trieste, dove il Comune ha fatto il punto sui cantieri aperti e su quelli in via di definizione per quanto riguarda gli edifici scolastici. Il servizio. Il Comune di Trieste sta spendendo 26 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Si tratta di interventi che riguardano i serramenti, i servizi igienici, le palestre, gli impianti antincendio e le opere antisismiche. I lavori più importanti, ha spiegato l'assessora ai lavori pubblici Elisa Lodi, sono quelli di manutenzione straordinaria che garantiamo ogni anno in base agli accordi quadro. Per ora gli accordi sono tre, per un totale di 1.800.000 euro. Per le opere in corso nelle scuole primarie educative d'Aosta, Dardi, Cioc, Finchgar, Collodi, Giupancic, De Tommasini e nelle secondarie Brunner, Rolli e Stock. Stiamo poi anche studiando ovviamente dove poter trasferire i ragazzi in modo tale che chi frequenta una scuola in periferia rimanga in periferia, chi è in centro città rimanga in centro città, perché sappiamo che creiamo già disagio con la chiusura di una scuola, ma non vogliamo creare ulteriore disagio alle famiglie. Il 5 dicembre è previsto l'avvio dei lavori al nuovo asilo nido a San Giovanni, durata 2 anni e spesa prevista 3 milioni e mezzo di euro. Entro la fine dell'anno saranno appaltate opere per un totale di 1.500.000 euro, mentre a breve cominceranno i lavori nella scuola Sauro Spaccini, dove per il restauro e la sostituzione dei serramenti verranno spesi 1.400.000 euro. Gli altri interventi riguardano la Dardi e la Venezian Caprin. Entro dicembre saranno appaltati interventi puntuali del valore di 6 milioni e 700 mila euro al nido, alla scuola d'infanzia in via Manzoni, alla Stock, alla Bergamas e alla Fonda Savio. Presente in conferenza stampa anche l'assessora alle politiche dell'educazione e della famiglia Nicole Matteoni, che ha garantito la collaborazione e il coordinamento con i dirigenti scolastici per assicurare il minor impatto sullo svolgimento dell'anno scolastico e l'individuazione di sedi alternative per il tempo dei lavori. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. La predisposizione in un anno e mezzo di 15 chilometri di fibra ottica nei vari rioni di Trieste a beneficio della qualità delle immagini, delle telecamere di sicurezza e della trasmissione dei dati, e quanto prevede l'investimento di 500 mila euro del Comune, presentato dall'assessore agli affari generali, innovazione tecnologica e transizione digitale Michele Lobianco. L'impianto di fibra ottica sarà di proprietà comunale e farà crescere da 120 a 150 il numero di telecamere in città. L'intervento interesserà 4 assi principali: via Molino a Vento San Giacomo, via Carducci Foraggi Valmaura e via Giulia Rotonda Boschetto e viale Miramare Roiano. Presentato a Udine Anin, il primo manuale per l'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole primarie. Con Anin 1, per le classi prime e seconde, ci si avvicina gradualmente alla lingua. Con Anin 2, per le classi terze, quarte e quinte, spazio agli approfondimenti di storia, geografia e letteratura. È stato presentato a Udine il primo manuale per l'insegnamento della lingua e cultura friulana alle primarie, progetto promosso dall'ARLEF, Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, con il supporto della Regione. Ha richiesto oltre 3 anni di lavoro a una squadra di 40 esperti, con tanto di sperimentazioni in classe. La distribuzione è già iniziata. Entro novembre saranno consegnati oltre 20.000 volumi a 247 plessi di 61 istituti comprensivi. Dall'attuazione della legge regionale sull'insegnamento del friulano si è guardato soprattutto alla quantità di alunni da coinvolgere. ANIN, indica l'ufficio scolastico regionale, rappresenta una svolta. Paola Cencini, referente per la lingua friulana dell'ufficio scolastico regionale. Gli argomenti e i materiali che si trovano al loro interno sono altamente qualitativi e vanno a migliorare il rapporto di qualità apprendimento della lingua friulana nella scuola primaria, perché è un atto dovuto che dobbiamo all'80% delle famiglie che ogni anno richiedono l'insegnamento della lingua friulana a scuola. Il manuale, è stato sottolineato, rappresenta il primo esempio in Italia di curriculum in lingua minoritaria integrato in quello nazionale, con un'attenzione specifica al linguaggio di genere e alla valorizzazione della figura femminile. Rosalba Pierini, curatrice del manuale. Il percorso di storia e di geografia viene innestato in maniera organica e funzionale su quello che è, tra virgolette, il programma di storia e di geografia fatto in italiano, per dare l'idea al bambino che la grande storia veicolata in italiano trova corrispondenza nel suo territorio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un nuovo bosco urbano di oltre 3.000 piante è stato realizzato nel comune di Udine grazie alla collaborazione tra il comune stesso e una società benefit Arboglia. Nel quartiere Aurora Udine sono state messe a dimora 3.270 piante di differenti specie arboree e arbustive. A regime il bosco consentirà di assorbire fino a 622 tonnellate di CO2 in 20 anni e 760 kg di PM10 l'anno, restituendo all'ambiente 456 tonnellate di ossigeno in 20 anni. L'iniziativa prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi 2 anni e consentirà di mitigare la temperatura durante le stagioni più calde. Alle 7.42 torniamo allo sport calcio. I tifosi dell'Udinese possono tirare un sospiro di sollievo. Quella rimediata sabato a Napoli da Gerard Deulofeu è una semplice distorsione al ginocchio senza particolari complicazioni. Il calciatore dovrebbe essere a disposizione già nella prima partita dopo la sosta il 4 gennaio in casa con l'Empoli. L'Udinese da sabato sera è in libera uscita. Sottil ha dato appuntamento ai suoi per il 25 novembre quando inizierà il ritiro in vista della seconda parte del campionato. La squadra si allenerà sempre a Udine. Il calendario delle amichevoli sarà diramato a inizio dicembre. Pallacanestro maschile, nella terza partita della prima tappa della Next Gen Cup, il torneo riservato alle squadre under 19 dei 16 club di Serie A, Pesaro Trieste ha ottenuto il secondo successo battendo 100-96 Varese. Apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal Piccolo di Trieste, che apre la prima pagina con la protesta del personale del pronto soccorso. Pronto soccorso, i vertici aziendali ci diano risposte, è il titolo. Infermieri, OSS e tecnici chiedono un incontro urgente, sullo sfondo lo stato di agitazione. La foto di due ciclisti in Piazza Unità d'Italia è lo spunto invece per richiamare la campagna annunciata dalla Regione con 1 milione di euro per il bonus bici. In prima pagina anche il richiamo ad un approfondimento di cronaca. Droga, armi e falsi, così si scoprono i traffici illegali in porto. Migliaia i container che la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane controllano ogni giorno ai varchi. E c'è stato anche un sequestro record di mascherine FFP2 fuori legge. La protesta degli operatori del pronto soccorso apre anche le cronache di Trieste del Piccolo, che ospita poi la lettera di solidarietà del coordinamento per la difesa del sistema pubblico, a chi, viene scritto, ha rotto il silenzio e denunciato la difficoltà nello svolgere il suo lavoro. Senza servizi territoriali, secondo il coordinamento, gli accessi in ospedale non possono che salire. Iscrizioni all'università aumentate dell'8,5%, il titolo principale del Messaggero Veneto di Udine, che specifica le facoltà più richieste sono ingegneria, informatica, economia e giurisprudenza. Al centro pagina la foto della bici schiantata a terra in piazzale Cella del 62enne Milan Stanisavljevic, investito e ucciso da un'auto, scrive il Messaggero, che all'interno specifica anche che la polizia locale sta raccogliendo ancora testimonianze. In aumento i furti in case e locali e il prefetto promette più controlli delle forze dell'ordine. Il tema è stato al centro dell'ultimo comitato per la sicurezza, scrive il Messaggero. Polizia e carabinieri quindi potenziano i pattugliamenti. Messaggero che in prima pagina annuncia anche l'edizione dei primi manuali di Friulano Anin e racconta del salvataggio di una cagnolina di 4 anni che durante una battuta di caccia inseguendo la preda è caduta in un dirupo, è stata salvata dopo 7 giorni. Il Gazzettino del Nord-Est del Friuli apre con un tema ambientale: l'inquinamento dei nostri fiumi. Il tagliamento è pieno di vernici nel tratto da San Daniele a San Vito ed è colorato di rosso nel rapporto dell'ARPA, che rileva alta presenza di idrocarburi anche nel Noncello. Atrazina e pesticidi sono presenti nel 32% delle nostre falde. Quindi la notizia: droga in carcere, avvocatessa udinese nei guai, scrive ancora il Gazzettino, che ricostruisce i tasselli dell'inchiesta sullo spaccio all'interno del carcere di Padova, dove sta scontando la sua pena anche il compagno dell'avvocatessa friulana. Fotonotizia poi per il bosco urbano a Udine. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo apre la sua prima pagina con un nuovo progetto legato a Gorizia Nuova Gorizia Capitale della Cultura 2025. È un piano di rilancio del Sabotino, prevista la valorizzazione di 6 gallerie della Grande Guerra attraverso un nuovo percorso. Spazio spazio anche alla politica e alle priorità di Gianfranco Pizzolitto, l'ex sindaco e ora segretario del Partito Democratico di Monfalcone, tema che apre anche le cronache dal mandamento con un articolo che annuncia lavoro e immigrati, le priorità di Pizzolitto, che detta la linea del PD anche sul lavoro e stranieri. Eletto segretario all'unanimità, Pizzolitto punta a ricucire i rapporti con le segreterie DEM del mandamento per far fronte comune e dice, in vista delle regionali, Monfalcone deve esprimere una candidatura. E sempre in ambito politico, in apertura delle cronache da Gorizia del Piccolo, oltre al progetto per il nuovo percorso sul Monte Sabotino, c'è anche la notizia delle dimissioni da consigliere delegato alle attività e agli eventi sportivi. Nessuna tensione, assicura l'ex assessore ai tempi di Valenti sindaco, continuerà a fare il capogruppo di Forza Italia. Dell'impiantistica sportiva si occupava già l'assessore comunale ai lavori pubblici Sara Filisetti, ora titolare definitiva della delega. Tecnologia digitale per la sfida del caro energia, il progetto presentato in Camera di Commercio di Pordenone, con il quale il Messaggero di Pordenone apre il giornale. Si tratta di un'analisi però che presenta un quadro fosco, perché il 73% delle imprese del terziario non prevede di effettuare efficientamenti energetici, il 39% di queste imprese non può farlo perché non ha la possibilità di intervenire sugli impianti essendo magari affittuari. Nella cronaca, l'investimento di una ciclista di 69 anni sulla ciclabile di Viale Grigoletti, l'automobilista è scappato. Al centro della prima pagina la storia di Vincenzo Lelleri Vanin, abbandonato in fasce con l'aiuto della figlia, ha scoperto chi era la madre a 78 anni, dice sono rinato. Il Gazzettino del Nord-Est di Pordenone ritorna poi sul caro bollette che bruciano, scrive 180 posti di lavoro, i più penalizzati i panifici. Intanto Piancavallo non chiude perché gli alberghi sono pieni. Sono le 7.48, ci sono anche l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e l'Università di Trieste tra i partecipanti al progetto infrastrutturale MET dedicato allo studio dell'evoluzione tettonica dell'Italia, progetto che prende il via oggi a Roma all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quattro gli obiettivi principali del progetto, finanziati da un budget complessivo di 43 milioni di euro, tra cui l'aggiornamento tecnologico delle grandi reti di osservazione e dei laboratori scientifici e l'implementazione di piattaforme informatiche innovative per la comunità scientifica internazionale. Gli appuntamenti in regione. Al di là dei 20 anni è il titolo dell'incontro dedicato alla poesia di Pierpaolo Pasolini che si terrà alla Civica Ioppi a Udine alle 18. Alla serata parteciperanno il poeta Giuseppe Nava, Walter Colle, Caterina Di Fant, Valentina Rivelli e Gianmario Villalta. Nel corso della serata sarà proiettato uno degli 11 video del progetto Pasolini 11-22 realizzato da Fondazione Pordenone Legge. Al termine dell'incontro sarà inaugurata la mostra Pasolini 100 a cura di Mario Brandolin e Renato Danelone in collaborazione con il Centro Studi Pierpaolo Pasolini di Casarsa. La serata rientra nel ciclo di incontri sui luoghi della giovane poesia italiana promossi da Pordenone Legge e dal Centro Studi Pasolini con il sostegno della Regione. Otello, il dramma shakespeariano della gelosia, arriva al Teatro di Udine tutto al femminile. Il cast della produzione del Teatro Stabile dell'Umbria è composto da Federica Fracassi, Ilaria Genatiempo e Cristiana Tramparulo. Andrea Baracco è il regista che così spiega questa scelta esclusivamente al femminile. Non si tratta di una questione estetica, ma poetica. È un inganno, dice, per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può un giorno trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si trovano allineati come astri di una costellazione. Sipario alle 20.45. La seconda giornata del cinema ibero-latinoamericano di Trieste porta a bordo della nave ONG Open Arms con il documentario Cartas Mojadas della spagnola Paola Palacio. Il film sarà proiettato alle 16 al Teatro Miela per la sezione contemporanea. Nella stessa sezione alle 19 il messicano Hasta el fin de los tiempos di Alejandro Molina che incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. La serata prosegue con due film presentati dai loro registi. Alle 21 in programma la produzione argentina Quando la miro, storia di un rapporto materno-filiale. Opera prima la regia cinematografica del popolare attore argentino e apprezzato regista teatrale Julio Chávez. Conclude la giornata nella Sala Grande alle ore 22:50 il cileno Zurita y los asistentes di Jael Valdivia. Racconta la lotta del poeta cileno Raúl Zurita con la malattia del Parkinson. Prosegue la tournée di Elio con il suo spettacolo dal titolo Ci vuole orecchio, dedicato ad Enzo Iannacci nel circuito ERT. Questa sera sarà a Tolmezzo alle 20:45 e domani a Gemona. Gli Oblivion calcano nuovamente le scene dei teatri ERT. Graziana Borgiani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli portano Oblivion a Rhapsody, il meglio del loro repertorio in versione acustica, questa sera a Maniago al Teatro Verdi alle 20:45 e domani all'Auditorium Biagio Marin di Grado, sempre alle 20:45. Altri appuntamenti: concerto del centenario dell'Associazione Alpini di Trieste al Politeama Rossetti con inizio alle 20, presenti Coriana di Trieste, Sappada e Palmanova. Guido Zaccanini, docente di storia della musica al Santa Cecilia di Roma, sarà a Udine per presentare la sua storia dilettevole della musica, insulti, ingiurie, contumelie e altri divertimenti, in dialogo con la scrittrice Elena Commessati alla Libreria Moderna alle 18:30. Dedicata al commediografo Johannes Stroh, l'Aristofane del Teatro Popolare Viennese, la conferenza che si terrà all'Università di Udine alle 17:45 a Palazzo Antonini. A parlarne sarà la studiosa dell'autore austriaco Federica Rocchi dell'Università di Firenze. L'incontro si può seguire anche sui link dell'Università. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 la rubrica in friulano Wolf Evelyn D parlerà della illuminazione stradale pubblica nel territorio comunale di Butrio, che in gran parte è spenta per mitigare i costi energetici. Dalle 11:20 a Radar, inquinamento e salute, cellule artificiali, il libro, la molla e il cellulare, che differenza c'è tra una scoperta, un'invenzione, di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, e infine la rubrica Almanacco Scientifico di Davide Montesarchio. Sono le 7:54, si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Nada Ciocche e Andrea Covre. È andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Giampaolo Zucchi e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Daniela Sossi. Prossimi appuntamenti con l'informazione radiofonica regionale alle 11, il flash alle 12:30. Una nuova edizione del giornale radio. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.